fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui di nuovo, buonasera a tutti, 1:50 del mattino, sabato 21 luglio 2018, ovviamente sempre in diretta su Resto Radio Convento con Master Nick e con quattro bellissime ragazze che sono venute a trovarci, che avevano una voglia matta di venire qui nei nostri studi, ai nostri microfoni. Sono state, come dire, trattenute per parecchi minuti perché non le controllavamo più e giustamente dovevamo dare anche spazio agli altri. Ora non ce l'abbiamo più fatta, abbiamo dovuto farle entrare e non vedevano l'ora di chiacchierare insieme a loro, e quindi le conosciamo con piacere. Quello che conta ricordare è che stanno festeggiando lei, la vera protagonista della serata, un po' assonnata, vedo, perché si stava un po'... No, sei ancora in forma? C'è ancora carica? Adesso. Oh, va, mi piace questa dimostrazione di forza e di... come dire, di Di mojito, forza di mojito, questa dimostrazione di mojito. Bene, bene. Allora, dai, la festeggiata, la sposa, come ti chiami? Valeria. Valeria, benvenuta, da dove vieni? Piacenza. Piacenza, molto bene, l'abbiamo detto. Insomma, ti sposi, quindi ho già svelato un po' il motivo della tua festa. Ma raccontaci un po', quando sarà, insomma, la bella data e chi sarà il fortunato. Allora, 25 agosto. Sì. E lui si chiama Paolo. Lui si chiama Paolo, benissimo. Salutiamo. Eh beh, è giusto salutarlo. Noi gli diciamo cosa stiamo facendo. Beh, insomma, stai parlando qui, quindi è tutto sotto controllo, tutto nella norma. E tra l'altro, come già dicevo a loro fuori onda, e lo ripeto ai microfoni, continuate la tradizione del 25 agosto come una data popolatissima per i matrimoni, quindi avvertiamo ancora di più tutti gli stabilimenti balneari e l'Autogrill d'Italia che non passerà nessuno quel giorno lì, perché saranno tutti impegnati a festeggiare. Sì, sì, al tuo, ma come ti dicevo, è una data molto molto gettonata perché la stanno prendendo tanti, quindi non ci sarà molto turismo quel giorno lì. È un peccato per gli stabilimenti balneari, festeggiano i ristoranti, la cerimonia e le chiese che saranno pienissime. Come mai, anche a te chiediamo, come mai la scelta di questa data così inusuale? Di solito agosto non si sceglie di sposarsi ad agosto. Volevamo, non lo sa neanche lei. No, volevamo fare qualcosa di diverso. No, brava, brava. Giugno, settembre. Giugno e settembre, esatto, sono i mesi più popolati per queste celebrazioni. Invece agosto non si sceglie, così avete deciso una data un po' inusuale. Quando avete scelto quando avete scelto, insomma, il giorno? Dopo quanto tempo fa? A novembre, quindi era una data decisa, ben stabilita. Sì, più o meno, insomma, ambivate a quel giorno lì. Ok, allora, da quanto vi conoscete tu e Paolo? 6 anni. 6 anni, che è un po' quella via di mezzo tra il tanto e il non ancora abbastanza. Sì, insomma. Sì, è un po', ma tra l'altro hanno sfidato la sorte perché hanno deciso di sposarsi l'anno prima della famosissima crisi, esatto, del settimo anno, quindi sono un po' temerari. Ma davvero c'è ancora questa voce che gira della crisi del settimo anno? Sono tutte baggianate. No, sono tutte baggianate. Sì, anche perché la crisi può arrivare al quinto, l'ottavo, il ventunesimo, cioè non, o può non arrivare mai. No. Come, esatto, si spera, come si spera. Bene, bene, dai, 6 anni. E dove vi siete conosciuti? A Parma. No, lo stava chiedendo consigli, probabilmente non si ricordava più. A Parma, in una serata. Sì, in un locale di latinoamericano. Ti piace parlare latinoamericano? Sì. E fai anche, segui i corsi? Sì, li ho fatti. Da quanto? Vabbè, l'ho fatto, no, vuol dire che hai smesso. Sì, l'ho fatto per 2 anni. 2 anni, salsa, baciata, merengue, esatto, o solo... No, tutti. Tutti e tre. Ma con lui? Con lui e senza lui. Ah, sei partita da sola e poi siete andati avanti. Sì. Siete andati avanti insieme. Ti piace? Molto. E come mai la scelta del latinoamericano? Perché non mi piace il liscio, non mi piace. Però ti piace ballare. E che ne so, l'hai scelto tu, e mi dice, non lo so, mi dice, l'hai scelto tu, chiedevo il motivo. E quindi ti piace ballare, ma ti serviva, insomma, qualcosa che ti appassionasse. Esatto, mi appassiona molto. E andate ancora a ballare o avete smesso? No, qualche volta. Qualche volta, anche perché diciamo che la scelta di locale è vastissima. È vastissima, sì. Insomma, sì. Tantissimi fanno le serate latine, dimostrazione del fatto che, insomma, è un genere che va forte. E frequentate a Parma o vi siete dovuti spostare per i corsi? No, facevamo Parma. C'è possibilità, quindi, esatto, c'è possibilità, sì. Brava, brava. E non si sono fidati di YouTube, perché alcuni adesso si affidano ai tutorial su YouTube, invece voi siete andati sulla strada classica. Ok. Allora, so che non sei sola, nonostante, ecco, una delle tue amiche si stia allacciando le scarpe, stia cambiando le... Aia! Aia, ha bucato le scarpe, è un problema, quindi invitiamo tutti i calzolai d'Italia a correre velocemente, perché c'è bisogno di un cambio scarpa. Dicevo che non sei sola, chiaramente non ti ha ti hanno accompagnato, non so, amiche, parenti, adesso lo capiremo meglio. Poi una sorella, ok, una collega speciale addirittura, e un'amica speciale, quindi solo persone speciali nella tua vita. Ce le vuoi anche presentare? Allora, mia sorella si chiama Elisa. Elisa, benvenuta. Poi c'è la mia collega Simona. Yes. No, ho sbagliato. Ecco, guarda, è così speciale che nemmeno si ricorda il nome giusto. La mia collega Monica. Monica. E la mia amica Simona. E la tua amica, vabbè, ok, quindi hai solo sbagliato di posto, però non è che... Ok, ok, bene. E da quanto le conosci, a parte tua sorella che immagino più o meno da una vita, le altre due da quanto le conosci? Anche no, non sa niente sta ragazza, continua a fare così, ma per dire no, non mi ricordo. Ah, chiede sempre aiuto, certo, è giusto. No, lei è una quindicina d'anni, la collega. Voglia, quindi tantissimo. E l'amica 6 anni. 6 anni, quindi contemporaneamente a, esatto, a Paolo. Esatto, perché Paolo è l'amico di suo marito. Paolo è l'amico di suo marito, ah ok, quindi diciamo che per incroci strani vi siete incontrati. E come mai, perché vedo la fascia che ti è caduta adesso, la sposa novella, come mai questo è titolo? È la scelta dell'amica. Sentiamo, c'è un motivo o... Quando ho fatto il mio addio al nubilato me ne avevano regalate due, e quindi ho pensato questa di regalarla a lei. Ah, che bello! Quindi un pensiero che è anche un ricordo della tua festa, che hai, diciamo così, un passaggio di testimone, esatto. Chiamiamolo così. Bello, mi piace questo. Era da 4 anni che... Che aspettavi quel momento? 6 anni, scusa, del 2012, che era lì che aspettavi questo momento. L'ha stirata tutte le settimane per tenerla messa in naftalina, lavata, non vedeva l'ora di dartela e finalmente ci è riuscita. Allora ragazze, volete dire qualcosa? Volete fare un saluto alla vostra amica? No, vi odia. Un in bocca al lupo e... Bravo! Tante belle cose. Beh, insomma, è già più che sufficiente. La scambiata di nome, che non ha più un'identità da qualche minuto. Monicone? Ti auguro il meglio e sii felice per la sua vita con Paolo. Oh, bello, bellissimo messaggio. Vai, la sorella, che è l'ultima, come allora, giusto che sia. Ti auguro tutte le cose più belle, perché ti voglio un mondo di bene. E posso rubarti finalmente la camera che aspettavo di rubarti da 6 anni. E l'armadio, che è la cosa. E vedi che sembrano belle, dolci e affettuose le sorelle, e invece poi vogliono solo rubare armadi. Questo è il motivo principale dei matrimoni. Bene, no, a parte gli scherzi. Bellissimo messaggio anche quello. Vuoi dire qualcosa anche tu? Ti va? Niente. Se ti va, sono non, molto non... contenta di aver passato questa serata con loro. Oh, vedi. Con le altre che sono rimaste fuori. Oh, cioè... aspetta, salutiamo anche le altre. Vai. Sono Valentina e Cinzia. Valentina e Cinzia, molto bene. Adesso andiamo avanti nella serata. Anche perché non è ancora finita, c'è ancora un'oretta e mezza per ballare, quindi c'è tempo, esatto, per divertirsi. E poi non vedo l'ora che sia il 25 agosto. Oh, brava, mi piace questa tua attesa spasmodica, questo affetto, anche un po' di quella lì, di cagarella, come si dice. Questo affetto, insomma, si sente l'emozione nella tua voce e anche nei tuoi occhi, molto bene. Allora, tanti auguri ancora a Valeria, in bocca al lupo per tutto, per la tua vita, soprattutto sentimentale, e per l'evento che ci sarà tra poco, e un saluto anche alle sue amiche. Grazie mille ragazze, alla prossima, ciao!